lagrime, scorrenti da quel ciglio. Credo fra il dubbio e l'ansia, ed è subito perilio della nostra memoria. Non in video, non in video, a voi.